scrivete pure se vi va. Ma non dovreste giudicare. E se questo modo di pensare a voi non va, cercate solo di capire. Come potete condannare chi vi credete che noi siamo? Per i capelli che portiamo, facciamo così perché crediamo.